Ma intanto siamo ritornati ovviamente a quello che purtroppo qualche mese fa stava succedendo, nel senso che non ci è stata pagata la retribuzione del mese di dicembre, quindi siamo in attesa che ovviamente l'azienda faccia la sua parte. Le azioni da mettere in campo? Le azioni da mettere in campo sono ovviamente di cercare di capire come poter risolvere questa situazione. In questo momento abbiamo un governo che è venuto in fabbrica davanti ai nostri cancelli a promettere di nazionalizzare, è stata più una propaganda elettorale. Ad oggi non ha ancora mantenuto le sue promesse e quindi di conseguenza cercheremo di far valere quello che i lavoratori meritano, quindi rispetto e dignità sul posto di lavoro. E siete in contatto anche con gli altri delegati delle altre fabbriche in Italia? Sì, noi ci sentiamo, ci aggiorniamo sulla situazione. Ovviamente quello che si sta vivendo ad Avellino, a Flumeri, si sta vivendo anche a Bologna, cioè lo sconforto o comunque la delusione per quello che il governo ha detto e non ha fatto, e quindi di conseguenza sì, siamo sempre in stretto contatto affinché insomma per entrambi ci possa essere una soluzione nel minor tempo possibile, anche se la situazione è piuttosto complicata. È stata anche ventilata la possibilità di una nuova cassa integrazione, di richiedere la cassa integrazione, e da questo punto di vista voi dicevate sarebbe una decisione completamente unilaterale comunque. Sì, sarebbe unilaterale da parte dell'azienda, perché noi come organizzazione sindacale o comunque come FIOM non abbiamo intenzione di firmare la cassa integrazione. Le commesse ci sono, il lavoro c'è, noi chiediamo di poter lavorare, questo per Flumeri ma soprattutto per Bologna, visto che ne rappresentiamo i lavoratori qui a Bologna, e non abbiamo nessuna intenzione di firmare una cassa integrazione, che l'azienda se la vuole fare la fa in maniera unilaterale. E a proposito di commesse che ci sono, in realtà c'è il rischio di perdere una parte che sono state protette in qualche modo dalla regione finora. Perché c'è questo rischio? C'è questo rischio perché bisogna ricordare che la vecchia proprietà ha lasciato un mare di debiti, ha lasciato una situazione economica difficile, quindi la nuova azienda in questo momento ha dovuto far fronte a tutti gli impegni per quello che riguarda i contributi o le spettanze che riguardano stipendi e quant'altro, e quindi ha fatto una rateizzazione, ha concordato una rateizzazione con l'INPS affinché venga rilasciato il BURC, che è un documento che serve alle municipalizzate o ai fornitori, a chi altri, insomma, di poter avere garanzie per poter pagare i materiali, per poter pagare i veicoli e poi di conseguenza poter pagare gli stipendi e pagare tutto quello che serve per poter andare avanti. Certificazione che però finora è bloccata anche per via dei mancati pagamenti agli stipendi. Esatto, proprio così. Un'ultima domanda, visto che comunque resta il sostegno della regione, resta l'attività dei sindacati, avete già in programma un tavolo, avete provato a parlare anche con i ministeri e c'è in programma qualche incontro? Allora, noi abbiamo mandato richieste di incontro proprio per avere un tavolo al ministero. In questo momento il ministero o chi per loro non si sono ancora prodigati a darci una data. Sappiamo appunto che la regione è al nostro fianco, ci sta accompagnando in questo difficile percorso, sappiamo che in settimana andranno a Roma e anche loro, oltre a noi, solleciteranno il governo e il ministero a farci avere un tavolo al più presto.